Scusi, c'è qualcuno nascosto? Giulio, ci sei? Ma è 24, non sapete che hanno un accidente. Mamma letta, sì. Ah, a 5. Mettilo a 10. Guarda, così a 10, 1, 2, 3. Così già cambia. Molto amplifica. Non molto, è la verità. Vabbè, dai, l'importante è che non sto con un microfono in mano, mamma mia. Mi stavo ammazzando quel microfono, poi se non parlate da vicino non si sentiva nessuno. L'importante è che mi si senta così. No, così già stai scendo. Bene, non è che sia pezzicata, dimmi che te la modifichi, ya lo sai, si può modificare la modificazione di quel microfono. Già lo so, l'ho staccato io quel filo. Allora già va bene. Non deve amplificare molto che se no disturbo. Ah, per quello este. Gliel'ho tolta la modifica. Ho capito il porticello, infatti che gli è eliminato. Uia. Già, l'importante è che vada bene così, già. Sì che va bene così, a voglia. E almeno non sto col microfono in mano. Capito? E almeno sei tranquillo, non c'è il microfono in mano, quello che è vero. E poi mi dicevano, non ti sento, avvicinatelo col microfono. Come lo allontanavo a poco spariva la radio, deve avere una capsula del cavo. Eppure è uno di quei microfoni che usavano nell'Alan 48 di quelli modificati, quello nero, della Midland. Sì, già lo conosco nel BP4, l'avevo venduto uno a Franco, di quei microfoni. No, ma quello normale stavo dicendo, è un microfono di quelli neri della Midland, quelli che usavano negli Alan 48 modificati. Però come te lo allontani, non si intende di... Perché fa così, cosa di lui. E vabbè, l'importante è che mi senti con questo, là, che già è più di lusso. Sì, ti sento bene, a voglia, ci mancherebbe. Accidenti, non c'è nessuno, né qua e né qui lì. Ho provato su tutti e due i canali, nessuno mi ha risposto. Mi ha risposto solo su di là e ti ho fatto scendere per questo. Già va bene, già. E ho finito di farlo poco fa. Sì, meglio così, almeno utilizzi e ti diverti un pochettino almeno a uscire con un bel microfono. Gara. Vabbè, io vi sono nascosto nell'altro canale, e poi sono anche acceso quell'altro. Ci sentiamo più tardi, Antonio, e chiudo tutto qua. Ehi, va bene Natalino, ci andiamo più tardi allora. C'è qualcuno qua? Tipo 10? Attenzione Marco, ci sei? Tipo 10, c'è qualcuno all'ascolto? Qualcuno qua? No, Frantonio, c'è qualcuno in ascolto. Avanti, chi sei? Gattalino da questa parte. Chi sei che non ho capito? Si è tolto basso. Come? Gattalino. Scatta da questo torre, ho capito, nominativo negativo, perché ti è tolto troppo basso. Capito? Quindi non è che la modulazione sia molto comprensibile, capito? Oia, scappa, ho capito, dai, ho sentito, un attimo che sto facendo cosa qua, sentiamo alle prossime, dai, ciao, ben sentito, grazie per la chiacchieratina, ciao, attento, ma Colino Condo, ci sei? Sì. e muri. Tanto credi. Giulio, ci sei? Voglio che dopo. Attenzione Giulio, se sei in ascolto. Sì, secondo me sì. Ok, allora lo faccio così, va. Oh, secondo come ti sicuramente. È sempre nel solito posto. Ah, tu non c'hai un microfono buono? Tipo Sadetta, buono, mi ricordo, c'è un microfono che ci va bene. No, ho questo solo. Oh, c'era anche l'apparecchio, mi. Ma si sente la vento da lì? Appena appena si sente. Vabbè, la vasta quanto non c'è bisogno. Mi ero spostato, mi ero. Perché stava venendo mia moglie, invece c'era un'altra persona che ha chiamato. Ho capito. Natali, tu bisogna fare una serie di cose, di... Quando tu metti la capsula lì, devi riempire di cottone bene, so ti fa effetto malato. Ma bene, sono chiara è la voce. Oh, sei di nuovo come prima. Come? Sei di nuovo come prima. E allora questa di raggià, butta già, la e basta. Cosa questa migliora? E la scarica è questa, questa migliora. Quella piccolina piccolina mi ho preso dal telefono. Cosa è andata lì, scusa? Quella piccolina piccolina ho preso dal telefono. E la classica capsula che tu trovi nei microfoni, diciamo, è quella. Quella che è piccola, quella piccolina piccolina, no? E vuoi farlo era piccolina piccolina, invece lo riassunto più grande. Ah, più piccola questa che ti ha dato, È piccola come questa che c'è qua nel microfono, quella del telefono, adesso gli piace il figli e la provo. E ieri era tanto il suo quarto controllo un email, che non vuole deve arrivare dei ricambi, capito? Un computer. Volevo vedere se riesco a come riportare il primo, capito? Sì, avanti. Luca! Luca, ci sei? Ricordate il video quando... Ora! Credo che sia... C'è qualcuno qua? Luca, ci sei? E lavoro come... Hola, attento Luca. Hola. Cercherò di farmi meglio di me. Attenzione Luca. Hola. Luca. Cazzo, ma è possibile, non bisogna niente, no, perché... Attenzione, Marco Condor, se ti è nascosto. All'alleare. Attenzione, 10, più 10. Più 10. Ciao Natali, buonasera. Sì, avanti. Gianfranco, ciao. Oh Gianfranco, come sto scendo di radio che ho messo con l'MD più 4? Molto, molto male. La radio va bene, cioè la radio nel senso di voce, tonalità, eccetera, solo che ti porti appresso rumori tipici da interruttore corroso, come se ci fossero dei contatti che non vanno bene. Prova a vedere, rumori c'è. Sì, molti rumori, proprio sono i tipici da contatto. C'è qualcosa che sta facendo un contatto parziale e ti fa tutto questo casotto. Ho capito. Non è che sia il carretto rotto, perché la radio è anche troppo amplificata, cioè è anche amplificata, si sente sotto che c'è anche roba accesa, però c'è questo rumore. Adesso sto controllando roba, sennò te l'avrei fatto anche ascoltare come la sento io praticamente, però è... magari è, sai cosa può essere? Il contatto interno, cos'è? Uno da tavolo, come? Un MB più 4, guarda un po' a vedere se ci sono questi rumori. Sì, ci sono decisamente. Quelle sono le spazzole del PTT, che hanno qualcosa. Adesso lo apro e vedo un po'. È una cosa vecchia soprattutto. Dai un'occhiata anche al cavo. Perché di norma quelli lo fanno quando collegano all'interruttore, al commutatore lì del PTT, anche il coso del microfono, il collocato del microfono. E quello lì, se c'è anche il minimo problema di contatto, inizia a fare proprio quell'effetto. E adesso provo a vedere. Sì, perché in effetti va, è un peccato, perché se no sarebbe un buon microfono senza remoto. Comunque, vedi un po', al limite tenta prima il CRC con qualche sostanza di tossidante, ma era fermo la troppa, ha depositato un po' di ossido e sta facendo tutto questo problema. Ok Natalizio, se c'è bisogno sono qua in ascolto, ancora per una mezz'oretta. Giambatto, mi hai già aperto il microfono, aspetta un attimo. Sì, fai. Sì, Natalizio, mi stavi chiamando, stavo facendo una saldatura, dai. Ciao Luca, sta smontando il microfono perché stavo facendo con dei rumori. Ciao Gianfra, poco fa lo sentivo cupo io, dai. No, più che altro porto appresso questi rumori che sono rumori da contatto, come se il PTT facesse un contatto difettoso sulla parte microfonica. Tipo quello così? No, non è un rumore alternato, è un rumore di frequenze varie, è proprio un rumore di strusciato, no? Tipo da falso contatto. Non c'è altro nessuno? No, non credo. Io ho acceso poco fa, ho sentito Natalino che chiamava. Io sto facendo orario perché tra verso le 9:30 faccio appunto la mia madre e poi me ne vado a nanna. Anch'io sì, infatti prima qua un'altra mezz'oretta. Sto cercando roba qua su come. Non è capito. Vabbè. Claudio, non si è sentito, Claudio, ci sei? Si è dato la pizzanza anche lui. Cosa, Gianfra? Anche lui è la pizzanza, evidentemente c'ha roba da fare, se no sarebbe sicuramente entrato. Sicuramente sì. Ebbe Natali, prova. Ma guarda un po'. No, sei tutto... Ho messo un po' di quello spray per contatto. Sì, ma lo fa sempre questo problema. Mai fatto, non lo faceva mai. Per esempio, quando sono entrato lo sento. No, è come se ci fosse un condensatore nel mandato. Fa quell'effetto, vero Luca? Una scarica diciamo, dai. Quando tu sei importante come se qualcosa carica e poi fa, non lo so, qualcosa del genere. Prova a vedere. A lungo, adesso non la fa. Guarda, 1, 2, 3, prova. No, adesso non lo sta facendo. La radio però non è forte, non è tanto forte. Però, insomma, è la tua. Guarda, più forte adesso. Premi solo la portante e parla dopo. Ho detto che è più forte. Sì, si sentono le voci di sottofondo, però amplifica senza dare potenza alla modulazione, capito? Si sente la voce di tutta la stanza e anche di chi c'è nella stanza, però compare una specie di rumorino sul fondo, però quel grattugiamento non c'è ora. Cos'era? Adesso c'è un rumoraccio. Guarda adesso. È aumentata la radio, però è tornato quel rumore. Guarda un po'. Però ti radio? Guarda, adesso è abbastanza, a metà. Dovrebbe andare bene così, credo. Allora lo chiudo? No, mettimi la portante senza parlare. Diciamo che c'è qualche rumorino ancora. Vabbè, vuole che sia quel tutto, va. Ma sarà da quello. Mettici una buona massa, perché si sente un accenno di innesco strano ora. C'ha una specie di, magari, come se non abbia una buona massa, mi capito? E fa quella specie di innesco. Casino, tagli i microfoni lì. Se vuoi ti faccio vedere questo qua, ti fa la modifica uguale. Dunque gli avevo messo, cioè gli ho messo la capsula del telefono di casa. Come ti sembra Gianfrate? Gli ho detto, un po' strano. No, no, la mia come ti sembra la modulazione, va bene? Sì, è molto amplificata, si sente lo sbattere del microfono, che è da tavolo, inconfondibile. Lo so, aspetta, ce l'avevo a 5, adesso è a 2, vediamo, aspetta, no, a 2 adesso. Sì, più o meno è la stessa cosa, ma va bene comunque, non c'è rumori di innesco o quelle cose lì. Ah, vabbè, io, grazie a Dio, una buona massa, nell'antenna. Io c'ho qualcosa che non guardi, magari potete prendere anche una baracchino. A proposito di baracchino, adesso ne ho uno, faccio una prova. Ok. Fischietto. Fischietto, niente copie. Guarda un po', ciao Franco. Prova? Prova. Ah no, più lungo, no. È impossibile dare... Ciao Franco, mi senti? Catalino! Catalino! Prova, prova. Va bene, non aumentare troppo. Prova, mi sentite? Sì, però c'è il rischio se aumenti. Mi senti? Sì. Luca, mi ricevi? Luca, controllati l'audio che non è. No, mi senti? Io ti sento, ma tu non mi rispondi, c'hai dei problemi con la, con la ricezione. Oh, ti ascolto un bel basso questo baracchino. Qua vedo che la popolazione c'è, quindi non so cosa dirti. Natalino invece lo sta ancora scacciavettando, Natalino. Eia. Beh, è risolto. Devi vedere tu se è risolto. A me sembra di sì. Ricevuto Natalino, sembra che hai risolto. Eia, guarda un po' se ha migliorato. Sì, adesso va bene. Per me non ci sono tutti quei rumoracci. Con l'altro non riceve, non lo so perché. Sarà quel modello con gli attacchi sul microfono per la ricerca. Ho capito. Sarà di quei microfoni che richiedono il cortocircuito, no? Quando rilasci il PTT per abilitare la ricezione. Ah, ecco. Aspetta un attimo, fa una prova. Tutto fischi. Dei fischietti? No, adesso no. Ma in questo è rimasto sicuramente, è davvero una pessima massa. E dove la collego la massa? Non lo so, a casa c'è un impianto di massa, sì. Ma di norma l'antenna dovrebbe essere insomma, già sufficiente, se c'è il radiale, non so come sia la situazione lì. Infatti per radiale è tutto, ma bene va adesso. Adesso sì, rispetto a prima sì. Ok, via va, lo lascio così, va. No, ci vuoi dire no. adesso ci hanno dei rumori, non so se sei tu muovendo cosa sul tavolo che te li porta dietro il microfono o che cosa sia. Sicuramente ero io, dai, adesso non ne sto facendo rumore. Infatti tieno presente quello lì, perché evidentemente è molto sensibile ai rumori che ci sono intorno. Adesso è a metà, magari vuole abbassarlo. Ma io direi di non toccarlo, l'ho lasciato così. Vabbè, allora lo lascio così, dai, l'ho tutto chiuso adesso. Ma cos'è, metallico o plastico questo microfono? No, è di metallo, un MD+4 è. No, io ho qua davanti un +2, ma penso che più o meno dovrebbero essere identici. È un da tavolo, è questo, un MD+4 come quello che c'ha Luca. Perché si sente molto il pulsante, come lo tieni premuto. Come erano i contatti? Tutti messi male, erano rifatto dei contatti che erano messi male, e adesso qua. Se non c'è niente qua per potermi ascoltare. Però adesso di nuovo è tornato a fare questi rumori. A metà passaggio, o è come premio, non so, però fatto sta che c'è qualcosa che ogni tanto dà fastidio. Aspetta, guarda, così bene va che non sto toccando né metallo né nulla. Così sì, quindi lo fa quando tocca il metallo, così. Se tocco la carcassa del microfono deve essere fatto quel gioco lì che mi hai detto tu. Infatti adesso l'ha fatto, stavi toccando, vero? Guarda, adesso sto toccando.